E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Di concentrazione, vi chiedo subito dall'inizio, perché sapete che questo è il nostro appuntamento, mio con voi, vostro con me, per riflettere, per tornare a commentare i fatti della settimana. E questo è uno spazio libero, di libere opinioni, di libero pensiero, per raccontarci appunto quali sono le notizie che ci hanno colpito di più, in compagnia, come sempre, di un opinionista estemporaneo che ci aiuta a dare una sua angolazione particolare sui fatti della settimana. E poi sapete, molti altri interventi, l'unico collegamento al mondo con un altro pianeta, con Marte, e poi altri punti di vista, i vostri in particolare, al numero verde 800 24 00 24. Ve lo ripeto, 800 24 00 24, una semplicità estrema. Cosa vi posso raccontare oggi a proposito di non ci sono più le mezze stagioni? Ve lo dirò tra pochissimo. Intanto volevo però ributtarvi lì qualche notizia delle tantissime, come sempre, che si susseguono nella settimana. Poi le altre, che non ci sia qualcuno che dice ma questa non l'hai citata, io ve ne dico qualcuna, poi voi avete la libertà di tirare fuori quella che volete, insomma basta che abbia un interesse collettivo, diciamo, ecco, certamente che il vicino vi ha chiuso la porta di casa in faccia, ecco, diciamo, questo non è di interesse collettivo. Però per esempio mi pare che sia una questione molto importante quelle che sono successe a livello politico, un po' come sempre negli ultimi mesi, no? Prima bocciato il rendiconto di bilancio giovedì, se non sbaglio mercoledì, giovedì, con questa caduta, questo scivolone che ha fatto il governo, che ha fatto tremare un po', diciamo, la maggioranza, e sperare da parte delle opposizioni che fosse il momento buono per far fuori, insomma, la stagione berlusconiana. E poi invece la fiducia che è stata votata venerdì, ieri, quindi si è salvato ancora una volta il governo Berlusconi. Tante cose ci saranno da dire su questo. Poi gli indignados, naturalmente indignados. Tra poco vorrei affrontare anche questo argomento. Il decreto di stabilità, diciamo la vecchia legge finanziaria, che ha fatto un po' di tagli anche particolarmente alle forze dell'ordine, 60 milioni ripartiti tra polizia, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, insomma un po' di tagli, si stanno lamentando anche sui buoni pasto per gli statali. Sembrava una misura di tagli, poi è stata minacciata una rivoluzione, sembra, guardavo questa mattina, che siano tornati indietro su questo elemento, poi dopo controlliamo meglio. E ancora lo scontro Minzolini-Fini, che questo è abbastanza, diciamo, saporito in questa settimana tra gli ingredienti. Scegliete poi voi, poi vabbè, se ci spostiamo sull'estero, tante notizie importanti come la strage dei cristiani copti in Egitto. Però ecco, come sempre, il nostro rito. Che cos'è che ci conferma questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni. Ebbene, questo fatto, no? Vi parlavo degli indignados, poi oggi a Roma ne sono attesi 200.000, giovani, non solo, ma soprattutto giovani, che protestano in particolare contro le banche, la finanza, ma anche la politica, perché ritengono abbiano rubato loro il futuro, forse anche un po' il presente, diciamo. Bene, che cosa succede? Che Draghi, Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, già designato governatore della Banca Centrale Europea, quindi grande super manager, banchiere, uomo di alto prestigio, di economia e di finanza, che cosa dice? Vediamo un po' se lo ritrovo adesso su, eccolo qua, sia su la prima notizia di Corriere.it ma anche di Repubblica.it: i giovani hanno ragione a prendersela con la finanza. Questo dice, ma non è finita qui. Voi dite, come una figura del genere che dice i giovani fanno bene a prendersela con la finanza? Ma per contro vado a riprendere un'altra dichiarazione che mi ero appuntata questa settimana, Bersani, ecco. Quindi l'esponente del maggior partito di sinistra o di centrosinistra, come vogliamo dire, che dice quello degli indignados è un movimento confuso, forse ha bisogno di una base più seria. È strano, no? Questo contrasto, non ci sono più davvero le mezze stagioni. Ma adesso, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, andiamo immediatamente a scoprire chi sarà l'opinionista estemporaneo di oggi. Antonello Caporale. Buongiorno a voi. Buongiorno caro Antonello. Sei sull'attenti con un caporale? No. No, sono ranghi bassi. Sei ai ranghi bassi? Nome, nome, in tutta truppa. Giornalista di Repubblica, scrittore, ha scritto tanti saggi. L'ultimo si intitola Controvento. Il tesoro che il Sud non sa di avere, pubblicato da Mondadori. Adesso che ci penso avrei dovuto scrivere il tesoro che l'Italia non sa di avere. Eh certo, perché altrimenti qua c'è un po' di secessionismo, un po' di secessione, un po' di insomma, no, poi no. Si può ricorreggere la copertina. Tesoro, il nuovo tesoro soffia più al Sud che al Nord, però pure al Nord, in Toscana, in Emilia, soffia in Toscana forte. Moltissimo il vento, io ci sono, ho vissuto l'infanzia, lì di vento ne ho preso tanto, devo dire, e quando mi sono trasferita al Nord l'unica consolazione era quella che le Alpi avrebbero fermato il vento, siccome non me ne volevo andare, insomma, mi ha raccontato, vabbè, ma lì non c'è il vento perché ci sono le Alpi in Lombardia, hai capito? A Portobello ci fu quella straordinaria performance del signore che voleva togliere la nebbia dalla Padania bucando l'Appennino Ligure, sì, dando uno sfogo alla nebbia al mare. Dopodiché ha pensato che come il tunnel dei neutrini forse era il caso di evitare. Caro Antonello, quindi in questo libro, poi ne parliamo ulteriormente se c'è tempo, tu parli appunto delle risorse di un Sud attraverso un libro che è inchiesta e racconto insieme, racconti degli aspetti contraddittori che conosciamo per lo più del Sud, no? Tanta bellezza, tante risorse. No, credo che si leghi molto al tema attuale. Noi tutti diciamo e ci ammaliamo e protestiamo, oggi c'è questa straordinaria e bella protesta mondiale, non ci sono i soldi, non fateci pagare il vostro debito, dicono, il debito non è nostro, dicono i giovani, ed è giusto. Io penso che i soldi ci sono, siamo più ricchi che poveri. Dove sono nascosti? No, sono dilapidati, sviati, deviati, a volte, per la tre quarti dei casi, per la nostra incuria, per la nostra colpevole collusione, per la qualità ridotta al lumicino della classe dirigente. E a volte sono così tanti che non ce ne accorgiamo, quindi ho detto, ma se il vento fino a 20 anni fa ci scompigliava solo i capelli. Molto romantico, epica questa cosa. Adesso invece è divenuto un motore propulsivo di una forza economica, ci trasforma il vento in energia, e anche il sole è energia. E ho notato che ovunque ci sia una pala c'è qualche privato che intasca tutto il vento, il trasformato del vento, il prodotto dal vento. Ma il vento è mio come tuo, come di tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando. Perché lo Stato non se n'è accorto? E perché lo Stato non ha tratto i benefici dal sole? Ci sono i pannelli fotovoltaici. E perché non li abbiamo mai installati noi? Perché non abbiamo mai ritenuto che fosse un bene comune? Perché? E soprattutto, perché, Antonello? Perché alla radice c'è l'ignavia e c'è l'assenza di ambizione. Perché abbiamo dato il nostro portafogli e anche il nostro futuro a persone insensibili, a persone che non hanno competenza. Il talento, tu mi insegni, è una coniugazione effervescente di passione e applicazione quotidiana. Non è che il talentuoso è solo l'estroso, il creativo che dice le battute, è colui che studi e sa e quindi si applica. I politici non si applicano e vogliono subito il minimo possibile, perché abbiamo questa postura servile: dammi dell'elemosina e raccogli tutto il bottino che puoi tu, dammi una cifra fissa e non farmi avere problemi, paure, pensieri, fatica. Fatica. Poi l'avevi già scritto in Peccatori, no? Questi vizi degli italiani, che già appunto. Ma questo è un po' più grave, perché alla somma, alla quantità di questa ricchezza nuova, che al 2020 raccoglierà una cifra enorme di fatturato, circa 90 miliardi di euro, pensa solo che la manovra, questa manovra di oggi, è di 58 miliardi di euro. Così abbiamo pure delle cifre su cui stabilire il nostro collegamento telefonico. La cosa che mi ha colpito è che proprio non ce ne accorgiamo. E allora diciamo, non ci sono soldi, bisogna tagliare gli ospedali, bisogna tagliare le pensioni, bisogna tagliare gli stage, anzi gli stage non si pagano più. Allora bisogna tagliare i contratti precari. Mentre secondo te, insomma, i soldi, come dicevi all'inizio, ci sono, le risorse ci sarebbero. Senti, tra l'altro, Antonello, leggevo adesso su Corriere.it, adesso se non mi riscompare il video come fa ogni tanto, il birichino un po' capriccioso, leggo solo il titolo: rinnovabili, energie rinnovabili, condono tombale per le rinnovabili, per gli impianti senza autorizzazione, anche penale, il condono per reati edilizi, paesaggistici e ambientali. Ma certo, il paesaggio cos'è? E chi lo sa? Lo vuoi che lo sappia un politico, vuoi che il paesaggio abbia un valore, uno spuntone di roccia, un nebbio reale, che vola, il paesaggio, tu metti tutte le pale che vuoi, basta che dai a me un soldino. Il rapporto, la relazione tra il comune che ospita le pale e la raccolta economica delle pale è di 98 a 2, per ogni 100 euro 2 centesimi al comune in media e 98 alla ditta privata. Ma se noi facciamo le aziende pubbliche pure sul cioccolato, il latte, le caramelle, perché l'energia non ha questa dignità, no? È un bene collettivo, il vento soffia per tutti. Facciamo un'azienda pubblica e dividiamo almeno i proventi del vento, ma nulla, non c'è nulla da fare. Antonello. E si dice subito e sempre, nei talk show, ogni sera, ogni mattina, sbadigliando un poco, bisogna fare il decreto crescita, bisogna fare il decreto sviluppo, bisogna tagliare le pensioni. Noi spendiamo all'anno 800 miliardi di euro, 800 miliardi di euro. Perché ne spendiamo così tanti? Perché abbiamo 5 livelli distinti di governo e di spesa. Più centri di spesa, più centri di governo. Abbiamo 1 milione di persone che vivono di politica e costoro devono trovare il modo per rendere utile la propria giornata. No, e certo, ci siamo indignati già parecchio in queste settimane, Antonello Caporale, ma tra pochissimo vorrei sentire Maria da Trieste al numero verde 800 24 00 24, ma dare prima anche un po' di spazio, visto che sono sempre numerosi le ascoltatrici e gli ascoltatori che scrivono sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, quale notizie fra le tante hanno scelto per esempio loro questa settimana. Poi parleremo anche di altri commenti che hanno fatto. Alino per esempio scrive: sono due le notizie di questa settimana, entrambe passate sottotono dalla stampa online. La morte dell'inventore del pacemaker e quello dell'inventore dei primi linguaggi di programmazione del computer. È carino che ogni tanto qualcuno metta delle notizie, diciamo, che non sono di primissimo piano. Per Maria Chiara, il vento della protesta degli indignados, che è arrivato anche in Italia. E Marco scrive anche lui: indignados, ma vorrei proporre un'altra chiave di lettura. Ci indigniamo e basta? Un po' critico. Oppure il caso che ognuno inizi a fare la propria parte senza aspettare che qualcun altro serva il pranzo già pronto, la protesta è sterile se non porta proposte. Poi, non so, c'è Monica che anche lei dice indignati, ma anche la fiducia al governo. E per Corrado la nomina di 4 viceministri appena dopo la fiducia al governo. Walter scrive: la lotta interna della Lega, l'asse Sarkozy-Merkel a livello europeo, questo riapertura delle indagini per la strage di Via D'Amelio. E poi ce ne sono molte altre, ma per il momento mi fermo qui. Antonello, rispetto a quello che hai detto sinora, no? Antonello, dimmi. Tu che potresti capire più di altri, diciamo. Allora, dopo tutto questo, siamo uomini o caporali? Metà e metà. Noi siamo cuor di leoni con il cuore degli altri. La verità è che non c'è vita senza passione. Dobbiamo farcela venire la passione, perché non c'è più tempo, non c'è più chance, e questa è l'ultima chance. Ma lo dico davvero. Ciascuno di noi fa il proprio lavoro e ha la fortuna di fare un bel lavoro come noi, o ha la fortuna di fare un lavoro impegnativo e poco gratificante. Però la delega, la completa quotidiana delega, abbiamo trasformato le cabine elettorali e le abbiamo viste come cabine, quelle che si usano per spogliarsi al mare, le cabine dei libri, no? Ci piaceva il tratto somatico di un tizio, ci piaceva il primo arrivato che diceva: vi darò tutta la felicità possibile, tutta la ricchezza possibile, non dovete fare nulla, solo una vita di diritti. Ah, bellissimo. E votiamolo costui, votiamolo. Senza riferimenti. E non abbiamo nemmeno lo scrupolo di vedere, fammi vedere in questa biografia che carriera criminale questo tizio che mi chiede il voto ha. Nemmeno questo abbiamo visto. Tutto d'un tratto abbiamo scoperto, in questo caso colpevolmente, che il nostro portafogli era dato in mano a degli straordinari parrucconi, farlocchi, arruffoni. Ah, che peccato, ci rovinano la vita. Mi sembra che di colpo non ci si può attendere che da una mente modesta e mediocre. La mediocrità poi che cos'è? La mediocrità è colui che mica è un fesso il mediocre, è colui che conserva e sclerotizza, tirala, mette il proprio palmo di mano sulla corda e si fa tirare. Senti Antonello, poi dopo proseguiamo su questa cosa molto interessante, vedremo appunto i punti di vista delle ascoltatrici e ascoltatori. C'è Maria, c'è Pietro, ci sono molti all'800240024, ma prima ti avevo chiesto se eravamo uomini o caporali. Mi chiedo il posto delle donne in un paese come il nostro, a parte nelle professioni, nei luoghi di potere eccetera eccetera, nella società, nella politica. Non è un paese per donne. Adesso al centro del Corriere c'è l'ennesima omicidio da parte di un uomo nei confronti di una donna, sua ex compagna, è avvenuto a Crema qualche mese fa. Si erano convinti gli inquirenti che fosse un omicidio-suicidio, la madre che aveva ammazzato prima la bambina di 2 anni, bellissima tra l'altro se la vedete così in prima pagina del Corriere, poi se stessa con barbiturici e gas. Invece si è scoperto che era stato quello, che un uomo che era stato amante per qualche tempo suo, nonostante fosse sposato, un primario oculista di oculistica di Crema, pensate. Si è scoperto per varie casualità e poi per una serie di intercettazioni, ecco che ritorna alle intercettazioni, che invece era stato lui, per dissidi con l'ex compagna e con l'ex compagna, poi ha fatto fuori anche la bambina, insomma, a ucciderle entrambe. Si è risolto proprio nelle ultime ore questo caso. Per dire, e poi c'è una ricerca, l'ennesima, che dice che c'è una donna violentata in Italia ogni 8 minuti e ogni 2 giorni una donna uccisa, per l'85% in famiglia. Ma visto che non ottiene mai, diciamo, chissà quale attenzione questo argomento, passiamo anche alle molte altre notizie. Vedevo adesso un'agenzia di pochi istanti fa che riguarda Confindustria. Il Can, John El Can, il presidente della Fiat, si è dimesso dalla vicepresidenza di Confindustria. Ma dicevamo, opinionista estemporaneo di oggi con noi a commentare insieme i fatti della settimana è Antonello Caporale, giornalista di Repubblica e scrittore. L'ultimo libro si intitola Controvento, il tesoro che il Sud non sa di avere. Ma vediamo anche il numero verde 800 24 00 24. Chi c'è? Maria da Trieste. Buon pomeriggio. Ciao, a te, Maria. Ciao. Buongiorno ad Antonello Caporale, che apprezzo sempre i suoi articoli. Io volevo rifarmi a quanto è successo ieri e volevo metterlo, e mi è saltato subito all'occhio quando ho letto la notizia che che l'Unione Europea ci ha richiesto di restituire 78 milioni di euro per le quote latte. Vecchia storia. Si ricorda, sì, no? Quella cosa, che naturalmente saremo noi cittadini a rimborsare l'Unione Europea. Allora, ho fatto un parallelo, scusatemi il termine, ma io ho pensato al mercato delle vacche, no? Siamo in tema, naturalmente, diciamo, certo. C'è stata questa richiesta, e poi quanto si è visto in politica, che 2 ore dopo quelli che si sono comprati i voti sono andati subito a riscuotere, no? Come il mercatino sarionale che uno va e fa, o al ribasso, cioè i due vice ministri, due sottosegretari, ecco, dici, ecco, che sì, sono andati subito perché dovevano anche eliminare i costi della politica, così siamo punto a capo, ce la fanno pagare sempre. Questa è una cosa amarissima per noi, veramente non credo che loro sappiano che noi cittadini, che siamo quelli che subiscono tutte queste angherie da parte di questa gente, che sono là incollati per sempre. E c'è una colla molto particolare, molto tenace, devo dire che ancora bisogna scoprire i misteri, diciamo, questo collante così tenace. Grazie Maria. Antonello Caporale, tra l'altro tu ieri hai fatto anche subito un pezzo istantaneo audio su Repubblica.it, su uno dei viceministri. Se vuoi, una storiella che ho appena scritto per il blog su Repubblica.it, sì, che è una bella storiella, che racconta come ci vogliamo bene e come mettiamo al centro la nostra famiglia. Un signore, si chiama Michele Pizzacane, era sindaco di Agerola, un bel comune sui Monti Lattari, in provincia di Napoli. Si diede alla politica, ma prima si innamorò della sua segretaria comunale, la signora Annalisa Vessella. Lasciò la poltrona di sindaco, si candidò nell'UDC ed ebbe fortuna. Poi con Annalisa scelse di allargare il tetto, la comunione di vita, e quindi facciamo un figlio. Annalisa, incinta, aspettava questo bel figlio, e però, sempre per il bene comune, Michele chiese ad Annalisa: ma vuoi candidarti pure tu al Consiglio regionale della Campania? Annalisa dice: ma c'ho il pancione, ma non ti preoccupare, lo faccio io, la campagna elettorale la seguo io per te. Annalisa Vessella divenne Annalisa Pizzacane, cognome del marito, e il marito, bisex politicamente, andò per strade, vie, viuzze, piazze a chiedere i voti per la sua moglie, e così la sua moglie fu eletta nell'UDC al Consiglio regionale della Campania. Questo dopodiché, è amore, possiamo dire che è amore. Amore. Dopodiché l'UDC però non la scelse come assessore regionale, e Pizzacane si innervosì e disse: vuoi vedere che io cambio partito? Il 14 dicembre scorso votò la fiducia al primo ministro Berlusconi e quindi cambiò partito. Lo cambiò pure, sempre per amore e per il bene comune, Annalisa Vessella, che è ritornata Vessella dopo essere stata pro tempore in campagna elettorale Annalisa Pisacane, e cambiò dall'UDC al gruppo misto. Anche il ministro delle politiche agricole, Saverio Romano, cambiò e dall'UDC passò al gruppo misto e per coincidenza fu nominato ministro delle politiche agricole. E sempre per coincidenza la signora Anna Vessella in Pisacane, già consigliere regionale, tuttora consigliere regionale e consorte dell'onorevole Michele Pisacane, è stata nominata amministratrice delegata dell'Istituto Superiore per l'Agricoltura, per la sperimentazione. Che storia intricata, una storia intricata, Antonello, ma quel dubbio che mi rimane adesso, no? Tutto questo cambiamento di casacche politiche, almeno lui è rimasto fedele alla moglie o no? Questo è un dubbio che mi rimane, almeno credo in amore. Sì, ah, è felicissimo, no, e sono due cuori e qualche poltrona. Voglio dire che anche in questo caso, ritornando al serio, la donna, specialmente in politica, ha un profilo così deteriore, così degenere, così non come tutte, dire, beh, non tutte, marginale. Non è, Prego? Non tutte, diciamo, però tutte, a volte. Però l'immagine che noi abbiamo della politica e delle donne in politica è un gruppo di ragazze che arriva non per passione, ma per altri. Per passione di qualcun altro, ragazzi, diciamo, nei loro confronti. Questa è una cosa brutta, che non fa onore e soprattutto non fa indignare quanto dovrebbe, perché la scelta nella nostra vita privata è solo privata, ma non ci dovrebbe essere relazione con certo. il nostro futuro. Antonello, adesso noi abbiamo, dopo che ci sarà Pietro da Firenze, dopo ci saranno Pietro da Firenze, Basilia da Roma e gli altri ascoltatori e le altre ascoltatrici all'800 24 00 24, abbiamo questo collegamento irrimandabile, irrevocabile con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Questa volta qui da Marte, causa il caos terrestre, mi è a dire il vero un po' difficile dare, come fa tutte le settimane, un rendiconto di bilancio, diciamo così, di quanto accaduto in questi giorni, più che sull'intero globo terracqueo, su quanto avvenuto in Terra Italica. Mi limito dunque a brevi circoscritte situazioni osservate da quassù, da Marte, col mio telescopio. Intanto, in seguito al discorso del Premier alla Camera in questi giorni, qualcuno ha paventato l'imminente avvento dell'Islam integralista in Italia. Il timore parrebbe derivare infatti dalla seguente frase del Presidente del Consiglio durante, per l'appunto, il suo discorso il giorno prima della fiducia: «Non mi farò lapidare». Di qui l'immediato allarme diffuso nel paese, ma per qualcun altro invece i ripetuti sbadigli di Bossi, 12 in 19 minuti, sempre durante il medesimo discorso del Premier, sarebbero di per sé rassicuranti sull'eventuale minaccia integralista, senza bisogno di altri commenti, altrimenti non avrebbe sbadigliato con tanta soporosa tranquillità e senza soluzione di continuità. Intanto nel PD sono estremamente indignados per l'agire di radicali che ancora non hanno deciso cosa faranno da grandi, ma ciò che spicca in special modo questa settimana è una sensazionale scoperta. Secondo un team di esperti cinesi, americani, mongoli, canadesi ed europei, insomma una squadra direi quasi planetaria, lo Yeti, Yeti alla francese, ovvero l'abominevole uomo delle nevi, esisterebbe per davvero. Ce ne sarebbero, pensate, in Siberia almeno 30 individui. E le prove sarebbero rappresentate in particolare dal ritrovamento di peli, specialmente un pelo bianco della lunghezza di centimetri 7, poi trovate tane e mostruose impronte. E qualcuno, forse per incompetenza o peggio ancora per malafede, ha subito pensato di averne individuato un esemplare anche in Italia, quando ha sentito parlare in inglese, diciamo così, durante una conferenza stampa per il blitz contro i pirati somali, il ministro della difesa, La Russa. Force for what they did today, but I prefer that my chief tell in English what we do. Oh, la rifacciamo tutta, perché la posso fare anche meglio in inglese, ragazzi. Che gli devo dire? Questo è il problema. Ma ritorniamo subito con i piedi per terra, abbandoniamo altri pianeti, gli Yeti, eccetera, eccetera, e andiamo subito al numero verde 800 24 00 24, perché c'è Pietro da Firenze. Cosa ci devi dire, Pietro? Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. La mia era una domanda e una riflessione. Sì. Volevo sapere come mai ogni volta che cittadini scendono in piazza, come sta succedendo oggi anche qui in Italia, non guidati né da sindacati, né da partiti politici, né da movimenti politici, bisogna sempre acchioppargli, come si dice dalle mie parti a Firenze, un nomignolo. Indignati, No Global, Dragoni. Io in questa settimana, guardando giornali, telegiornali, talk show dove c'è politici, mi sembra parecchio riduttivo e diminutivo dire termini tipo indignati, quando quelli sono cittadini, sono elettori che stanno in parte hai ragione, Pietro, scusa se ti interrompo, però devo dire, è partito dalla Spagna, indignados sarebbe, e credo che se lo siano attribuito loro, ma anche se gli è stato attribuito, per esempio Draghi, credo che lo abbiano scelto loro stessi in Italia, e penso che sia comunque una bandiera d'identità, proprio perché appunto, come dici tu, non ci sarebbero almeno ufficialmente partiti. Sono proprio uno di quei cittadini che in piazza sta scendendo diverse volte. A Roma, io da Firenze mi sto muovendo diverse volte per andare. Ti assicuro che cosa voglio far passare come messaggio, sempre che io sono un cittadino, un elettore, non sono né guidato da nessuno, non mi sento appartenere a un gruppo di indignati o di qualunque altra razza o di qualunque cosa. Sono un cittadino normale e mi piacerebbe che quando vedete un show, dei politici specialmente, invece di usare la parola quei no global, quei no degli indignati, usasse la parola cittadini, elettori. No, in questa ragione, Pietro, anche se penso che molti si riconoscono al movimento e altri ne facciano, vogliano partecipare a queste proteste, alle manifestazioni, a un certo tipo di riflessioni, eccetera, senza per forza essere qualificati in qualche modo. Ci sono entrambe le cose, c'è una compresenza, una convivenza, Pietro. Ci sono quelli che si riconoscono proprio in un movimento, come non so, la famosa pantera, per esempio gli studenti che manifestavano negli anni, se non sbaglio, 90, era la Pantera, o forse anche all'inizio degli anni 2000. Ci sono quelli che vogliono proprio far parte di un movimento con quel nome e altri che partecipano alle stesse istanze senza voler per forza essere identificati con un nome, un'espressione, eccetera, Pietro. Comunque abbiamo capito, condividi, diciamo, la protesta dei cittadini in questo momento contro le banche, la finanza, la politica, eccetera. Buon viaggio, Pietro! Grazie. Grazie a te. Basilia da Roma. Pronto, buongiorno. Buongiorno Basilia. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E soprattutto al suo ospite che mi ha colpito un po'. Dove ti ha colpito, sua... Basilia? Dove ti ha colpito, Antonello? Mi ha colpito nel suo parlare, mi ha colpito, perché comunque oggi non sentiamo nessuno che ha un linguaggio così, è sensibile a certi problemi e attento a certi problemi, ha il coraggio di dire certe cose, perché siamo nell'ipocrisia totale. Allora io mi domando, quando c'è una persona che ha uno spessore etico e morale così alto, perché non si candida? Lo fa per noi siamo anziani poveri, disperati, tristi, malinconici, e i giovani di domani saranno altrettanto malinconici, perché non hanno futuro questi ragazzi. Ecco oggi perché ci sono le dimostrazioni, questo è l'esempio della disperazione. Siamo due categorie di disperati, poveri, i giovani e gli anziani. Noi ci fanno vivere nella miseria totale, i giovani non hanno futuro, questa è la realtà. Io prego delle persone con una mente così aperta, così sana ancora, questi valori così forti, vi prego, fate qualcosa per noi, oltre che scrivere, mettetevi in politica, cercate che sia un rinnovo generazionale, i giovani, questi gotti ritriti, queste facce che sono veramente il nostro incubo. Se va via Berlusconi, ritornerà tutta quella massa di corporazione, di corporativismo, tutti insieme che continueranno a fare i leoni. Vi prego, levateci questi leoni. Basilia, scusami, siccome Berlusconi e molte ascoltatrici e molti ascoltatori hanno commentato sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni questa cosa, no? Due delle affermazioni che ha fatto in questi giorni, uno nel discorso per la fiducia, se non sbaglio, ha detto Berlusconi: non c'è un'alternativa credibile al mio governo. In realtà è una frase che ha ripetuto più volte in questi giorni. Non è vero. È vero? Chissà qual è credibile, chi c'è dopo di lui? Quindi, c'è di nuovo Rutelli, c'è di nuovo il vecchio sindaco di Roma, abbiamo di nuovo Ascolta Basile, se si andasse a elezioni anticipate, ancora non si sa, perché invece Berlusconi ci arriveremo nel 2013, qualcuno, lo stesso boss minaccia ogni tanto il 2012, vediamo se non finisce il mondo, forse si potrebbe anche arrivare. Tu chi voteresti se ci fossero elezioni anticipate? Non c'è, apposta sto chiedendo a persone così. Ah, ecco, fatevi avanti, Antonello Caporale, si faccia avanti. Io mi ostino, ma mi non ci vado a votare perché io non trovo una persona alla quale dare un voto. No. E se ci dovesse andare sapendo che va la maggioranza, che può essere la sinistra, mi addolora, va a Berlusconi, mi addolora, non c'è, noi siamo nel vuoto, noi abbiamo il vuoto totale, signori, noi siamo disperati. Basilia, sei stata chiarissima, più chiara di così. Antonello, prima della prossima brevissima pausa, come commentare? Ti vuoi candidare? Ti stai candidando? Sei prossimo? No, non credo che sia la questione che pone Basilia è centrale. Come tu sai e come sa pure Basilia, perché presumo veda, ascolti la radio, Radio 24 e anche altre, e la TV, i canali che vede, non c'è la capacità di illustrare una ragionevole, plausibile risposta a questo nostro tempo cattivo. Lo noto anch'io, cioè, ma mi dici tagli, mi dici che siamo messi male, quale cura tu mi offri, la diagnosi è semplice, ma la cura è più complicata. La cosa che a me spaventa, al pari di Basilia, è l'assenza totale di un'idea alternativa. Perché uso una parola un po' forte per questa giornata e per questo orario e forse per questa trasmissione, me ne scuso, ma la crisi... Ma forse i minorenni non ci sono, può darsi. Il capitalismo maturo è una crisi sistemica, vuol dire che siamo in un mondo capovolto, che alcune cose dobbiamo fare, altre non dobbiamo fare più. Come rispondere? Anch'io noto con dispiacere che non c'è una risposta comprensibile, facciamo questo e facciamo quell'altro. C'è una quantità di gente che gestisce la cassa comune dell'Italia che non è competente, su questo lo sappiamo. Noi, Basilia dice, non basta scriverne, va bene, però io scrivo per professione, mi pagano per far questo e mi pagano per documentare le cose. Abbiamo venduto 2, 3 anni fa, 4 anni fa un patrimonio immobiliare pubblico stimato in 16 miliardi di euro, l'abbiamo venduto per 6 miliardi di euro per fare subito soldi cash, 3 miliardi se ne sono andati per le negoziazioni e 3 miliardi sono arrivati nello Stato, nelle casse dello Stato. Adesso si ripropone questa cosa forse di vendere allora, le case popolari. Può ritenere legittimato un ministro, un governo, una classe politica che vende un patrimonio che vale 16 miliardi di euro e ne ricava 3. Noi tutti, ciascuno di noi, per la nostra casa faremmo questo? Non lo faremmo. Abbiamo bisogno di impegnarci e la domanda che pone Basilia, e credo non la ponga solo a me, sente me e naturalmente si rivolge a me, è una domanda del tutto pertinente. Dobbiamo acquisire forza e senso comune del bene comune e dobbiamo, credo, impegnarci più attivamente. Però volevo fare una domanda, diciamo, cruciale ad Antonello Caporale. Antonello, sei concentrato, sì. Antonello? Assolutamente sì. Ora io ti chiedo, è una specie di quiz questo, però devi essere pronto, io non so se i numeri sono la tua specialità, mi sembra di sì da quello che dici. Io dico, se durante il discorso per ottenere la fiducia Berlusconi ha parlato 19 minuti e Bossi nel frattempo ha sbadigliato 12 volte, quante sono di media al minuto, quanti sbadigli ha fatto? 1 minuto e 22 secondi. Come hai fatto a calcolare così? Uno sbadiglio. Ho inventato, però mi sembra 19, 12 sbadigli. Non c'è una calcolatrice. Uno sbadiglio ogni minuto e 22 secondi. Ogni minuto e 22. Uno sbadiglio ci seppellirà. Ci seppellirà. Temo che potrebbe essere. Tu parlavi anche di Gnavi a proposito delle risorse del Sud che non vengono valorizzate nel tuo libro Controvento. E le risorse dell'Italia che non vengono valorizzate. E i soldi che abbiamo, perché non dimentichiamo che siamo ricchi, non poveri. La verità è opposta a quella che ci si dice. È la quantità dello spreco che è enorme, parossistica, ma la quantità dei soldi è tale che potrebbe arricchire il mondo e quell'altro. Sì. Il vento e il sole è solo un paradigma, una metafora per dire guarda che persino col vento ci fai miliardi e non te ne accorgi. È chiaro però che se tu gestisci il bene pubblico e i soldi pubblici e li bruci, li immoli, 200 milioni di euro per preparare solo i lavori del ponte sullo stretto, che forse non si farà, 600 milioni di euro per pagare la penale in pregiro se non si farà il ponte, sono 800 milioni di euro, si può? Io chiedo, si può? Tu puoi fare la piscina quando non hai il tetto di casa? Puoi pensare, c'è un principio gerarchico delle cose, la TAV che è bellissima, io dico che è bellissima, ma costa 15 miliardi di euro quel buco, 15 miliardi di euro. Ci sono? Non ci sono. E però noi iniziamo. Ma come si fa? Io dico, mi chiedo, chiedo a te perché no, magari sono poco intelligente, no. Ma se tu non hai i soldi per acquistare un'automobile, perché entri alla concessionaria? Ma così per guardarmi in giro. Senti Antonello, io volevo sottoporti, secondo me, la frase, il concetto della settimana. Ecco, darei una palma d'oro al sottosegretario Giovanardi. Perché? Perché quando c'è stato lo scivolone del governo, no, giorni fa sul rendiconto di bilancio, poi appunto è stata necessaria la fiducia seguente, eccetera, eccetera, che cosa ha detto? Nonostante mancassero, quello che hanno fatto mancare i voti sono stati poi deputati del PDL, della maggioranza in generale, non solo PDL, della maggioranza tra Lega e PDL, responsabili eccetera eccetera, ne mancavano 17. Lui però a chi ha dato la colpa? Giovanardi ha detto che la colpa è delle toghe, dei magistrati che hanno messo in carcere Papa perché sarebbe stato fondamentale il suo voto. Quindi, secondo te ha dormito male? Ne mancavano 17, tra cui Tremonti e Bossi, non dico il peones che passava lì per caso. Non è la questione, dice la politica, la classe politica che l'intervento della magistratura ha intaccato le prerogative costituzionali perché l'assemblea non è perfettamente riunita, essendo Papa ristretto in carcere. Ma io vorrei chiedere perché Papa è ristretto in carcere. Ci sono buoni motivi? Ci avventureremmo per altri argomenti, ma vorrei risentire ancora qualche altro ascoltatore, per esempio Stefano che sta aspettando da Reggio Emilia. Stefano. Ciao. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti quanti, Roberta e Antonello. Avete già detto tutto quello che c'era da dire. Basilia prima di me praticamente ha fatto l'intervento che avrei voluto fare. Il mio problema è questo. Queste cose sono praticamente autoevidenti. Ha ragione Antonello, sono in fondo di fronte agli occhi di tutti. Abbiamo un governo assolutamente incapace, ma soprattutto abbiamo dietro al governo, dietro alla parte politica, anche una schiera di tecnici che mi sembra a questo punto assolutamente incapace. Cioè la schiera delle leggi assolutamente stupide, idiote, che non hanno alcuna ragione di essere, viene portata avanti senza alcuna vergogna, senza alcun ritegno. Per esempio, Stefano? Ma per esempio, l'altra sera c'è stata una trasmissione, mi manda Rai 3, il ricongiungimento fra diverse strutture pensionistiche, INPS-INDAP, richieste di 900.000 euro, in cui si aspetta un'interpretazione autentica per dire che in realtà si voleva evitare che le donne del pubblico impiego passassero sotto l'INPS per evitare il pensionamento a 65 anni. E questo ha creato questa marea di richieste assolutamente folli per congiungere soldi che sono già stati versati, che la gente ha già versato, che è ovvio, sono lì e dovrebbero essere ricongiunti gratuitamente. Ed è pieno il mondo, come giustamente diceva Caporale, è piena la nostra Italia di queste idiozie, di questi sprechi, di queste stupidità. Ha ragione Caporale, ed è vero, lo penso anch'io, siamo ricchi, solo li stiamo sprecando. Ma come possiamo fare a evitare questi sprechi? C'è una proposta alternativa? Mandiamo a casa Berlusconi, poveretto, non ha più speranza, ma si vede evidentemente. Ma dall'altra parte abbiamo una proposta seria? Cioè qualcuno sa cosa fare? È chiaro che in generale è molto difficile, la situazione è complessa, non è una situazione italiana, è una situazione mondiale, ma nel nostro piccolo, quello che noi possiamo fare, questi soldi che abbiamo, questa ricchezza che abbiamo, come possiamo fare a non sprecarlo? Grazie. Dall'altra parte avremo qualcuno che ci dice come? Speriamo per i miei figli soprattutto. Incrociamo le dita e salutami i tuoi figli, Stefano, ti ringrazio. Da una parte vedo a caratteri cubitali su una pagina del Corriere di questi giorni foto grande di Berlusconi che dice: se cado io si dissolve il centrodestra. Mi sembra una frase particolarmente esaltante, perché significa che quindi è un partito debole. Se c'è un solo uomo che incolla tutto insieme e se sparisce lui, sparisce tutto quello che sembrerebbe stato costruito in questi anni, almeno appunto per quanto riguarda il centrodestra, il PDL, un grande partito, eccetera. Quindi se cado io si dissolve tutto. Era un po' una minaccia, evidentemente, anche sulla fiducia. E poi dall'altra, giustamente diceva Stefano, qual è l'alternativa, e anche Basilia e altri. E vedo Veltroni in questi giorni che ha sfidato Bersani, ora ci vuole un governo d'emergenza, però insomma sembra che voglia fare un po' lo sgambetto a Bersani, ma dice non è vero, io non costituisco una corrente all'interno del partito, ma tutto sommato c'è Renzi dall'altra parte che si fa anche lui dispetti con Bersani. Insomma, effettivamente tutta questa confusione, si capisce qual è l'alternativa. In pochissimi minuti, Antonello Caporale, ti supplico di essere proprio sintetico, proprio in un minuto, se puoi rispondere a quello che ti dicevo. Ma voglio rispondere alla domanda più difficile, allora quella di Stefano. Chiede cosa fare. le altre sono brevissimo, se puoi, Antonello. Sì, brevissimo. Dobbiamo ridurre i centri di spesa. Per ridurre i centri di spesa dobbiamo togliere i livelli di governo intermedi. Non le province, ma secondo me le regioni. Ah. Sono troppi i livelli di governo, sono 5. Europa, Stato, regioni, province, comuni e poi tutto quel resto che c'è. Se togliamo il luogo più enorme dello spreco è l'ente regionale e il governo centrale. Riduciamo una quantità di poltrone, selezionando dunque meglio la classe politica, e governiamo meglio il controllo della spesa. Quello che ci manca è il controllo in inglese, come direbbe la russa, e accountability, la resa del conto, cosa spendi, per chi spendi, dove spendi. Noi non lo sappiamo. Tremonti non sa, sa solo il saldo. Io oggi sto spendendo 100 milioni di euro, ma non sa chi li spende e per cosa li spende. Se riduciamo i centri di spreco, riduciamo i centri di spesa, riduciamo la spesa. Se il nostro portafoglio in famiglia, siamo in 5, tutti spendiamo con la carta di credito in mano a tutti, non ci troviamo più, dobbiamo ridurre la quantità di carte di credito. Chiaro questo, Antonello. Adesso c'è un appuntamento, forse un po' nella confusione, non so dove andiamo a chiappare, Maria Laura Rodotà, commentatrice del Corriere della Sera. Maria Laura, dacci un tuo punto di vista su questa settimana. Dunque, io ho un punto di vista molto interessante, perché sono a Roma all'angolo di via Cavour e attenzione, sto vedendo scorrere il corteo indignato. È molto indignato? No. È molto indignato? Ci sono vari livelli di indignazione, ci sono molti indignati di mezza età con macchine fotografiche gelati, ci sono tantissimi indignati giovani, ci sono dei gruppetti di ragazzini pronti a tirarsi sulla sciarpa che si muovono molto veloci, insomma è diciamo una trama aperta. Gli infiltrati, insomma. Com'è? Un po' quegli infiltrati che vogliono un po' creare sempre disordine e tensioni, questi della sciarpetta, intendevi? Quelli della sciarpetta, sono, ho visto dei ragazzi molto giovani con la sciarpetta, ho visto moltissimi agenti in borghese che hanno molto l'aria da agenti in borghese, ma ce ne sono moltissimi. Riconoscibili. Il corteo è blindato, le strade sono bloccate da autoblindo, per cui una volta che uno è tra gli indignati deve essere indignato fino a San Giovanni, perché indietro non va. E quindi tu sei indignata fin lì, Maria Laura, sei indignata fin lì, quindi tu oltre. Io sono indignata con la mia bicicletta e cerco di twitterare il mio racconto del corteo, anche se non funziona molto bene. Molto bene, grazie Maria Laura, ci ha fatto anche da corrispondente lì da Roma. Buona biciclettata, indignata a tua volta. Invece a questo punto, non so se riusciremo a sentire ancora gli ascoltatori, ma dovremmo avere, Valeria Della Valle, della Sapienza di Roma, alla quale chiederò allora a questo punto, se siamo in tema, brevemente, carissima Valeria, questo termine indignados, indignati, c'era anche un ascoltatore, sì, che insomma polemizziamo un po'. Sì, mi pare che oramai, almeno per quanto riguarda l'Italia, abbia prevalso la forma indignati su quella spagnola, anche se l'origine, tutto il movimento è partito da lì e poi si è diffuso in tutto il mondo. Da quello che vedevo, anche cercando nei motori di ricerca, oramai prevale la forma italiana indignati. Non sto, perché non abbiamo tempo, a fare la parola indignato, che viene ovviamente da indignare, indignarsi. Beh, abbiamo ancora un minuto, se vuoi. Ecco, antichissima, addirittura alla fine del 200, sicuramente si indignavano anche allora, quindi anche allora si indignavano. Al successo di questa parola ha contribuito l'immenso successo del libro di Stéphane Hessel, che era Indignatevi. Quindi il concetto di indignazione, il sentimento di indignazione, e forse si è unito anche, ecco, aggiungo e concludo con quell'invito, per ricordarlo, di Steve Jobs, che diceva: siate affamati, siate folli. Beh, oggi potremmo aggiungere: chi è d'accordo, siate anche indignati. Molto bene, non so il livello di indignazione di Valeria Della Valle, ma intanto ci spiega come sempre la parola della settimana. Grazie Valeria. Maurizio, riesci a esprimerti in 23 secondi, mi perdoni Maurizio? Sì, buonasera a tutti. Grazie. Volevo dire semplicemente che ogni popolo si merita il governo che lo comanda. Semplicemente questo. Io penso che dopo Berlusconi non ci possa essere un'altra alternativa. Ci può essere o non ci può essere? Non ci può essere un'alternativa, perché Italia Bassale dirà: la situazione era drammatica. Senti Maurizio, però non devi mettere la mano davanti alla bocca o al telefono, non ti capisco. Sì. Liberato. La situazione è drammatica e quindi darà via di nuovo ad altre finanziarie, sicuramente, perché l'Italia è in bolletta già dal 1861, nel 1861 aveva già 300 milioni delle... Allora vecchie. Ancora più vecchi i problemi di quello che dice Berlusconi. Maurizio, ti ringrazio. Abbiamo questi 32 secondi in cui vorrei chiedere ad Antonello Caporale, visto che il tuo libro si intitola Controvento, dove ci porterà il vento? Secondo te? Ci renderemo conto, cambieremo il modo di vedere le cose. Bisogna cambiare il punto di vista delle cose. E poi le questioni le facciamo difficili noi, ma le questioni sono semplici, le dobbiamo ritenere semplici. Se no, se le facciamo difficili, si gonfiano come la pancia delle rane, ci portano ansia. Bene, buon vento a te allora, Antonello Caporale. Chiedo scusa alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ce l'hanno fatta, il numero è sempre quello, anche sabato prossimo alle 14:00 24:00 24. Potete risentire la trasmissione sul sito di Radio 24, sulla pagina Facebook. E da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.